giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Alle 12:19 minuti, ancora un cordiale buongiorno da Livia Liberatore Armando Mucchino, a voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. In questa edizione vi parleremo della Barcolana che sta entrando nel vivo, del congresso della Società Filologica Friulana a Concordia Sagittaria, delle giornate del cinema muto a Pordenone e per finire un'ampia pagina di sport. La splendida giornata di sole accompagna i primi appuntamenti della settimana della Barcolana che culmineranno con la regata di domenica. In mare, a terra e anche in cielo e con un tempo stupendo, sole, caldo e abbastanza vento che continuano le iniziative della settimana della Barcolana numero 56. Ieri sera il concerto dei Subsonica spostati di un giorno a causa del vento troppo forte, il ritorno a Trieste dopo 24 anni dall'ultima volta ha radunato in piazza Ponte Rosso migliaia di spettatori, anche giovanissimi, con una scaletta che ha mescolato i grandi classici ai brani dell'ultimo album. Sulle rive inondate dal sole intanto gli stand sono pronti ma ancora vuoti, mentre in piazza Unità c'è già il padiglione della Schmidt Foundation di Wendy Schmidt, vincitrice della Barcolana del 2022, insieme all'area marina protetta di Miramare, fa viaggiare nelle profondità dell'oceano. Ma da terra ci si tuffa in mare e dalla scala reale di piazza Unità parte Barcolana Nuota. La gara, ormai un'istituzione, conta più di 350 iscritti nuotatori professionisti e amatoriali per fare un miglio marino a nuoto quasi 2 chilometri in un percorso ad anello che si snoda vicino al Molo Audace. 10 edizioni e per questa c'è anche come testimonial il campione Luca Dottio. Ma Barcolana da quest'anno significa anche Lignano, qui si tiene la Barcolana Beach Sprint, canottaggio costiero in modalità match race. Prima edizione, anche questa, baciata dal sole, partite alle 8:30, finirà alle 15 con un momento conviviale per tutti. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. La Società Filologica Friulana sta celebrando a Concordia Sagittaria il suo 101° congresso sociale. La Razzani ha chiesto al presidente della società, Federico Vicario, di illustrare i passaggi salienti dell'appuntamento. Nel nostro congresso sociale presentiamo delle relazioni nelle quali appunto promuoviamo e valorizziamo quello che è il grande patrimonio, il grande tesoro della storia locale, in modo particolare dal punto di vista dell'archeologia, ma anche dal punto di vista appunto della storia per la Chiesa. Oltre alle relazioni abbiamo anche la presentazione di questo Numar Unik, di questo volume monografico sulla località e sul circondario, Concordia, quindi dedicato alla città di Concordia, un volume di 900 pagine curato da Franco Rossi e da Luigi Zanin, che appunto cerca di presentare quella che è la ricchezza di questa tradizione e di questa storia. Alla presenza di autorità civili e religiose, nel pomeriggio alle 18:30 è programmata nella sinagoga di Trieste la commemorazione della strage del 7 ottobre dello scorso anno nei kibbutz di Israele a ridosso della striscia di Gaza, attacchi che causarono la morte di 1.200 tra civili e militari israeliani, la cattura di oltre 200 ostaggi, in parte ancora in mano di Hamas. La cerimonia sarà aperta a tutta la cittadinanza e presidiata da un dispositivo rafforzato di forze dell'ordine. Vediamo il tempo: cielo sereno su pianura e costa, da variabile a poco nuvoloso in montagna. Le temperature registrate alle 11 a Trieste 17 gradi, a Udine e Gorizia 16,5, a Pordenone 16, a Tolmezzo 12 gradi, Forni di Sopra 10,5, a Tarvisio 9 gradi, Piancavallo 7 gradi, sul Monte Zoncolan 5,5, su Lussari 3,5, a Grado Lignano 5,5. Le previsioni a cura dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia: cielo in genere sereno, poco nuvoloso, con possibile maggiore nuvolosità pomeridiana verso le prealpi per velature e nubi basse. Zero termico in risalita in giornata, temperature massime in aumento, sulla costa nel pomeriggio soffierà brezza. Entrano nel vivo a Pordenone le giornate del cinema muto. Ieri l'inaugurazione con un film western. Fino a sabato saranno proiettati 200 titoli tra lungometraggi e cortometraggi. L'orchestra suona dal vivo e accompagna con le note le proiezioni delle giornate del cinema muto, come quella che ieri ha inaugurato questa 43esima edizione al Teatro Verdi di Pordenone. Un western con protagonisti tre birbanti. È questo il titolo del film del 1926 diretto da John Ford, ambientato nel Wyoming, preso d'assalto da fuorilegge avventurieri. Tra il pubblico, come da consuetudine, un migliaio di studiosi, archivisti e giornalisti che arrivano a Pordenone da tutto il mondo. ma ci sono anche tanti semplici appassionati del cinema muto dei primi decenni del Novecento, proiettato in copie restaurate provenienti da cineteche di ogni dove. Bentornati a casa, ha detto loro Piero Colussi, vicepresidente delle giornate pordenonesi, citando il saluto del direttore emerito del festival, David Robinson. Le proiezioni continuano fino a sabato. Nel vasto programma di oggi c'è stasera alle 21 un omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della morte, con la proiezione della Bohème di King Vidor del 1926. Un uomo del 1947 è stato rintracciato ieri sera dal soccorso alpino di Moggio Udinese assieme ai vigili del fuoco della zona di Travesi, in località Praforte. L'uomo era andato a funghi e con sé aveva un telefono cellulare di vecchia generazione, per cui non è stato possibile localizzarlo, riuscendo però a rimanere sempre in costante contatto telefonico con lui. Non si trovava molto distante da dove aveva lasciato l'auto, circa 500 metri in linea d'aria, ma era un punto lontano dal sentiero, in mezzo ad una boscaglia alle pendici del Col Manzon. Il soccorritore ha riferito di non essersi accorto che stava facendo buio e poi, non avendo con sé la torcia, ha perso l'orientamento per il rientro. Assieme ai soccorritori è rientrato a piedi incolume. Poco dopo le 8 di oggi è stato aperto il tratto a tre corsie dell'autostrada A4 tra Porto Gruaro e Alvisopoli in direzione Trieste. Nel corso della notte i tecnici sono riusciti a stendere l'asfalto drenante e a completare così l'intervento di allargamento della carreggiata, come era già successo 2 settimane fa in direzione Venezia. Nelle prossime settimane si procederà alla sistemazione delle barriere di sicurezza e al tracciamento della segnaletica orizzontale. Questo comporterà alcune restrizioni temporanee delle carreggiate. Da oggi la terza corsia è percorribile dai mezzi per l'intero tratto dal nodo di Palmanova a Porto Gruaro per circa 40 chilometri. E si sono concluse con successo nella notte le prove di carico del cavalcavia autostradale di Sistiana dopo i lavori di rifacimento delle scorse settimane. Ora servono i lavori di rifinitura della segnaletica, l'asfaltatura e il posizionamento delle barriere di sicurezza. Per la riapertura al traffico tutto dipenderà dalle condizioni del tempo nei prossimi giorni. Con un gol al 75esimo di Zemura, l'Udinese batte il Lecce, conquista 3 punti pesanti che fanno morale dopo 2 sconfitte di fila. 13 punti in classifica dopo 7 giornate, meglio, l'Udinese non avrebbe potuto fare contro il Lecce una vittoria pesante in termini di punti salvezza. La formazione friulana soffre sul piano del gioco, orfana di Toven, succede soprattutto nel primo tempo, con il Lecce che pressa alto con il suo tridente ma non riesce mai ad essere pericoloso negli ultimi 20 metri. L'Udinese risponde con un colpo di testa di Cabasele che finisce sulla traversa e con un palo su tiro di Zarraga, deviato da Baschi Rotto. Runiajc cambia volto alla sua squadra nella ripresa inserendo Davis per Brenner, ma ad essere decisivo è l'errore di Ramadani pochi metri fuori dall'area di rigore che costa caro al Lecce. Il sinistro su punizione di Zemura si infila sotto l'incrocio dei pali, una rete capolavoro per il primo centro in campionato del giocatore dello Zimbabwe. 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte prima della pausa. Mister Runiajc è soddisfatto. Alla fine sicuramente una vittoria meritata e completamente d'accordo con la tua analisi del fatto che sono stati 2 tempi molto diversi. All'intervallo ha fatto vedere alcune cose alla squadra e la squadra ha giocato anche con un altro piglio. Davis ha dato più forza e più peso alla manovra offensiva. Il primo tempo invece la palla girava troppo lentamente, un po' come era successo anche nel primo tempo di Parma, quindi sono state 2 partite un po' simili. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Per il basket di A1 oggi alle 18 Trieste gioca in trasferta a Napoli alla stessa ora, ma in A2 l'APU Udine giocherà a Torino. Cividale sarà invece in campo domani sera alle 20:30 in casa contro Brindisi. Ore 17, Palazzetto dello Sport di Roma. Il sogno rincorso per una stagione diventa realtà. CDA Talmassons inaugura la stagione nel massimo campionato del volley femminile, incontrando SMI Roma Volley. Le friulane vogliono stupire e conquistare i primi punti nel loro esordio assoluto. La partita sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della Federazione Italiana Volley, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. Orchette vittoriose in Champions League femminile. Nella piscina di Eger in Ungheria la squadra alabardata ha superato i rigori le padrone di casa 19-17 dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 14-5 e continuerà la propria avventura europea in Eurocup. A passare il turno sono le spagnole della CN Terrassa e l'Assis Roma. Era l'ultima notizia. Ha collaborato in redazione Cristina Polselli, per la parte tecnica Tommaso Vinoni e Giuliano Pecorari. Alle 12:29 minuti da Livia Liberatore Armando Mucchino, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.